Radio 24. Libera la voglia di fare. Nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Buona domenica, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24, programma che si occupa, come sempre, tutte le domeniche di lavoro, ma visto da un'angolazione femminile. Nel lavoro ci sta tutto quello che sta cambiando attorno a noi. Un cambiamento enorme, o così viene percepito, è quello che arriva dagli Stati Uniti col nuovo presidente che si insedierà a gennaio, lo sapete, Donald Trump. E molto cambierà nel mondo del lavoro, ci si attende negli Stati Uniti e anche fuori. C'è grande attesa anche per quello che è il commercio internazionale, e guardate che le grandi decisioni che vengono prese a Wall Street o a Washington o a Pechino poi si riverberano nella vita di tutti noi piccoli uomini di piccole dimensioni. E allora cerchiamo di capire tutto questo cambiamento anche col riflesso che può avere sulla stagione della carriera delle donne, che sembrava così lanciata al punto ad avere una Hillary Clinton alla Casa Bianca, e che invece forse in questo momento potrebbe conoscere una battuta d'arresto. Sarà davvero così? Sono curiosa di capire cosa pensa il nostro agente provocatore di questa domenica. E chi meglio di Brunello Cucinelli, uomo che nelle ultime settimane ha fatto su e giù Stati Uniti, di qua e di là, è sicuramente la persona che può farci capire se il mondo dei commerci internazionali sta cominciando a vibrare di un'aria nuova. Qual è l'aria che percepisci, Brunello Cucinelli? Buongiorno, grazie. Ma innanzitutto vorrei dire, per quello che riguarda le donne, noi abbiamo a lavorare il 70% circa, ma io credo che voi donne siete molto molto speciali. Intanto avete avuto dal nostro stimato Dio la capacità di partorire, il che significa che provate qualcosa di molto molto speciale. Avete un tasso del dolore enormemente, di sopportazione più alto del nostro. Siete più acute già da bambine, no? Quando coccolate le bambole siete già madri, quindi siete molto speciali. E io non vedo assolutamente in questo, in quanto la Clinton non è stata eletta, non vedo nessun arretramento da parte delle mie No, la mia impressione è, anche guardando, diciamo, alla nuova amministrazione che si sta formando, che si va formando a Washington, sono quasi tutti uomini quelli che sta scegliendo Donald Trump, uomini e bianchi. Può essere che, approfittando della sconfitta di Hillary Clinton, dagli Stati Uniti voglia partire un messaggio di torniamo indietro, le donne tornino a fare il ruolo tradizionale di bella statuina, di un po' come Melania Trump, bella e silenziosa, e la smettano di aspirare a entrare nella stanza dei bottoni. Secondo te c'è questo rischio o è impossibile tornare indietro? No, è impossibile, il seme del rinnovamento è germogliato e non può tornare indietro. Quindi, al di là di questi 4 anni, al di là di cosa farà appunto Trump, ormai la donna nel mondo contemporaneo è qualcosa di molto molto speciale, basti pensare a quello che era 50 anni fa, non si può tornare indietro, quindi io sono molto molto positivo. Poi vedete, sono un amante della storia. E la storia dice ci sono periodi in un modo e periodi leggermente in un altro, però non si può andare contro la storia, contro il rinnovamento, perché io credo che stiamo vivendo un nuovo esempio di vita, c'è un nuovo fermento etico. etico, morale, spirituale, religioso, civile, e questo porta anche la donna dove è arrivata. Quindi io non vedo a proposito di fermento spirituale, certamente sono importanti le cose che sta dicendo, proprio parlando alle donne, Papa Francesco, la sua richiesta per esempio di comprensione rispetto al tema dell'aborto è un tema che magari può dividere i cattolici e non solo, ma è una presa di posizione molto coraggiosa e che credo le donne apprezzino proprio perché sentono che questo Papa è dalla loro parte. Ma assolutamente sì, questo è proprio il rinnovamento, anche il rinnovamento del spirituale, il rinnovamento della Chiesa, l'essere contemporaneo, e il nostro Papa è, devo dire, un uomo contemporaneo. Ma guardate, quello che più mi affascina, devo dire anche questo, no? Perché trovo il periodo interessante? Per esempio in Italia questo grande dibattito, sì e no, ha riportato a discutere, i giovani tramite la rete discutono, stiamo ritrovando il valore della coscienza, quello che facevamo in qualche maniera negli anni 70, un periodo di grande discussione, politiche, religiose, sociali, umane, teologiche, e qui secondo me stiamo in qualche maniera riproponendo quella polemos di Eraclito, no? Dice quando padre maestra dell'umanità, se con garbo si discute con opinioni diverse, ma ritroviamo il valore della discussione. Quindi non bisogna avere paura del dibattito, i conflitti possono anche essere il sale della vita democratica dei paesi, no? Hai perfettamente ragione, però dobbiamo riscoprire l'arte di ascoltare, no? Come dice Plutarco, che onestamente non è facile. Perché non è facile, io penso? Perché noi viviamo un mal dell'anima da sempre, l'essere umano, no? Adesso vi è entrato dentro il mal e il rumore informatico, e questo ci crea quel vivere così così che possiamo curare senza dubbio solo con la cultura, no? Ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra pochissimo col nostro agente provocatore di oggi, Brunello Cucinelli. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Ecco, a proposito di cultura, Brunello Cucinelli, nelle tue terre, nella tua Umbria, il terremoto ha sbriciolato tanti secoli di simboli culturali, non soltanto importanti dal punto di vista appunto religioso, ma anche dal punto di vista artistico. E noi sappiamo che c'è un tuo forte interessamento. Com'è la situazione lì e che cosa la vostra azienda vuole fare per aiutare in questo senso i beni artistici che sono venuti meno? Ma intanto io partirei da che questa grande calamità, mi piace l'espressione di Aristotele quando dice anche le calamità hanno un'anima, fortunatamente a Norcia non ha creato vittime, e questo devo dire non è poco. Questa città meravigliosa, perché meravigliosa? Perché sino al 2000 era una bellissima cittadella, per l'amor di Dio, spiritualità, umanità, ma non vi era quella misticità che aveva acquisito adesso, quando nel 2000 arrivarono questi tre monaci benedettini dall'America, riaprirono il monastero e riportarono in questa città un'atmosfera molto speciale. Quindi Norcia era sino a ieri, secondo me, la città dello spirito di Benedetto, questo Benedetto che nel 500 d.C. decidere di dare un grande valore al lavoro. E quel convento è stato fortemente danneggiato dal terremoto? Sì, è stato danneggiato, ma lo ristruttureremo. Quello che mi piace invece è che Juncker ha detto che la cattedrale sarà ristrutturata dalla comunità europea, perché Benedetto è simbolo e protettore dell'Europa, e questo mi fa ben pensare. Ma non solo questo, guardi, io da tutto il mondo ho avuto email, Tutti vogliono partecipare alla ricostruzione, che vuol dire che c'è un grande sentimento umano per questa cultura speciale benedettina, che è molto contemporanea. Sai perché? C'è una bella frase di Benedetto all'ultimo quando dice: cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro, quindi le giuste ore lavorative, e noi adesso lavoriamo molto. Molto. A proposito di... ma poi ti lascio... No, dice l'altra è bellissima, aiutate i poveri, i malati e gli stranieri. Io trovo bellissima questa atmosfera. È molto, molto attuale, perché di lavoro si parla moltissimo, si è parlato molto nella campagna elettorale di Trump, che ha vinto proprio promettendo più posti di lavoro. E io sul lavoro vorrei chiudere questa nostra chiacchiera col nostro agente provocatore di questa domenica, perché appunto si parla molto anche di cambiamenti. Gli Stati Uniti potrebbero scegliere la via del protezionismo. Voi per esempio come azienda esportate tantissimo, no, in quel paese. Che cosa pensate che possa cambiare? Per noi è il primo mercato, io credo che non cambi veramente molto, anzi direi pochissimo. Ho solo qualche riserva su questo differenziale di ricchezza tra su poche persone molto ricche e molte persone chiaramente povere, ma per il resto non sono preoccupato, ormai le economie mondiali sono legate tra loro. Avete visto questi giorni che si dice che forse l'Italia rischierà, non sono per niente preoccupato. Guardate, il mondo intero apprezza l'Italia, siamo manufatturieri, secondi solo la Germania, ma nella parte altissima dei prodotti siamo i primi al mondo, quindi siamo un'Italia manufatturiera. Se noi italiani torniamo, come stiamo facendo, a rispettare le leggi del nostro Stato, a credere in noi stessi, io credo che, e ad essere come siamo, custodi, artigiani del creato, come ci dice Papa Francesco, abbiamo quella cultura millenaria speciale di tolleranza, di misticità. Noi siamo un popolo di persone per bene. Onestamente non ho tanta paura, guardate. Molto, molto rinfrancante in questa domenica. Ci vuole uno spirito di come dire, ottimismo rilassato. Grazie a Brunello Cucinelli per essere stato il nostro agente provocatore di questa domenica, e la provocazione è stata proprio questa: darci in controtendenza un'iniezione di fiducia e di ottimismo. Buona domenica, Brunello. Grazie a voi, buona domenica. Questo, lo sapete, è il momento della Sunday Girl. La Sunday Girl di questa domenica è una giovane donna che nella sua vita ha già fatto un sacco di cose. Per esempio, è stata la prima firmataria della legge per il rientro dei cervelli in Italia. Ha firmato con Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, una legge importantissima, perché è quella che ha imposto le quote nei consigli di amministrazione, cambiando la faccia dei consigli di amministrazione. Ed è la stessa eurodeputata che pochi giorni fa a Milano ha organizzato un grande convegno portando personalità come la commissaria europea Cecilia Malmström, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, il direttore della scuola internazionale di affari internazionali di Sciences Po Enrico Letta, ex premier, e il presidente di Assalombarda Gianfelice Rocca, per parlare appunto di come potrebbe cambiare il commercio internazionale. Voi sapete che, lo dicevamo prima, il commercio internazionale poi sembra una cosa lontana da noi, ma ha riflessi sulle vite di tutti i giorni, di tante piccole dimensioni, piccole come la nostra. Insomma, chi è la nostra Sunday Girl? È Alessia Mosca. Buona domenica, Alessia Mosca. Buona domenica, buona domenica a lei e a tutti. Allora, la prima cosa che mi viene da chiederle è: lei che con Lella Golfo ha firmato la legge che ha imposto le quote, cambiando proprio la faccia ai consigli di amministrazione italiani, non trova che forse sta cominciando a soffiare un vento nuovo da quando Trump è stato eletto? Non abbiamo ancora definito la squadra della nuova amministrazione americana, ma per ora i nomi che si fanno sono quasi tutti uomini, bianchi peraltro. E in ogni caso c'è questa figura molto tradizionale di First Lady che rimane a casa a New York, non avrà, almeno per i prossimi mesi un ufficio alla Casa Bianca come lo hanno avuto le ultime First Lady. Insomma, sta cambiando il vento per le donne. Ma queste scelte di Trump non mi stupiscono purtroppo, perché sono in linea con quanto lui ha rappresentato. Quello che è stato grave, infatti, che da più parti è stato denunciato, è stata la modalità con cui è stata condotta la campagna elettorale da Trump, i suoi toni, le sue argomentazioni, perché in qualche modo lui ha sdoganato ancora di più delle conquiste anche sul fronte della parità di genere che erano state portate avanti. E io credo che per contrastare questo sia necessario continuare a dare dei risultati concreti, perché se non si danno risultati concreti non c'è ragione per ritornare ad un sistema tradizionale. È una provocazione la mia, ma se non c'è dall'altra parte una proposta seria, forte e che sia visibile nei risultati, il rischio è che si torni indietro. Ecco, mi chiedo, ma il Partito Democratico oggi avrebbe ancora il coraggio di puntare tutto su una donna candidata alla Casa Bianca, o per un bel po' di anni non ci proveranno più? Ma secondo me non si può fare questa questa assimilazione diretta. Io credo che ci sarà e ci continuerà ad essere in Italia quantomeno la voglia di insistere su questa strada, perché quello che appunto abbiamo ottenuto in questi anni non credo sia distruggibile così rapidamente, anche se ovviamente tutto può succedere. Però c'è stato un movimento talmente forte che penso e spero possa contrastare dei tentativi di restaurazione, di ritorno al passato, no? Certo. Esatto. Col nostro agente provocatore, sempre seguendo il fil rouge delle novità che arrivano dall'America con Trump, ci chiedevamo cosa cambierà per il commercio internazionale e per il mondo del lavoro che ad esso è collegato. Lei, che ha appena organizzato questo convegno importante a Milano, come vede diciamo i messaggi con i quali Trump ha vinto la sua campagna elettorale, messaggi protezionistici? Riportiamo il lavoro negli Stati Uniti, e ce n'è ovviamente un gran bisogno, ma anche chiudiamo un po' le frontiere, riportiamo le aziende in America. Sono temi che fanno una grande presa, giustamente, in una pubblica opinione alle prese con una disoccupazione crescente. Anche in questo caso è un po' prematuro dare dei giudizi, perché un conto sono le parole usate in campagna elettorale, un conto sarà davvero il programma che sarà messo in atto a partire dal 20 di gennaio, anche perché io credo che molte delle ricette che Trump ha utilizzato durante la campagna elettorale siano assolutamente inapplicabili per come le ha descritte, e quindi bisognerà poi vedere alla prova dei fatti che cosa succederà. Certo è che tra le prime azioni già annunciate c'è il fatto che non si vorrà chiudere l'accordo transpacifico e questo ovviamente avrà delle conseguenze, sta già avendo delle conseguenze, in questo caso non sull'Europa, sull'altra parte sul Pacifico, però è chiaro che questo già segna una continuità con un atteggiamento che sicuramente in tutto il mondo, non solo negli Stati Uniti, sta diventando, a torto a mio avviso, protezionista come la risposta più facile ai disagi che oggi ci sono. Io credo assolutamente che questa non sia la strada, il protezionismo non risponde ai disagi, però fa molta presa. Certo, tra pochissimo torniamo alla nostra Sunday Girl di questa domenica, Alessia Mosca. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Nessuna è perfetta. Eccoci, bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Alessia Mosca, proprio notizia di questi giorni che se negli Stati Uniti per ora l'amministrazione sembra essere composta da maschi, qui in Europa sono due donne che stanno un po' decidendo le cose, vale a dire Angela Merkel che si ricandida per la quarta volta e Theresa May in Gran Bretagna. Lei che vive a Bruxelles e quindi respira quella che è anche una prospettiva europea. Due cose. La prima, come viene vista, come è stata vista a Bruxelles l'annuncio della quarta candidatura di Angela Merkel? Sicuramente non è stata una sorpresa. Da un certo punto di vista però sarebbe stato un po' di maggior speranza per modificare alcune delle politiche che oggi sono in atto in Europa, avere quantomeno un ricambio. Detto questo, io sono tra coloro che pensa che in tanti passaggi, se non ci fosse stata Angela Merkel, non ci sarebbero state alcune aperture su temi a noi cari, tra cui quello dell'immigrazione, e quindi io credo che non tutto ciò che è stato fatto da Angela Merkel a livello europeo sia da buttare. E invece l'altra lady di ferro che si propone almeno in questa chiave, Theresa May, per le tante ragazze che ci scrivono e che pensavano che Londra o l'Inghilterra o il Regno Unito potesse essere uno sbocco professionale laddove il lavoro in Italia non si trovasse, che messaggio arriva secondo lei dal Regno Unito versione Theresa May? Ci sarà ancora questa Londra accogliente per le nostre ragazze, le nostre professioniste che vogliono andare lì, o è bene che comincino a guardare altrove? Quello che emerge in questi giorni è l'assoluta mancanza di un piano, questa è la verità, e questo fa ancora più paura, se possibile, perché è evidente che non ci sia stato e continui a non esserci una vera idea di come uscire da questa situazione nella quale gli inglesi si sono infilati, e l'incertezza in generale è ciò che peggio fa a qualsiasi prospettiva, decisione strategica, sia sul piano individuale sia sul piano dell'economia e delle imprese. Quindi io quantomeno mi auguro che si chiarisca presto qual è la strada, perché così si potranno dare delle risposte. Ad oggi è molto difficile dare anche le più semplici delle risposte su che cosa potrà accadere. Lei che è promotrice, che ha firmato la legge per il rientro dei cervelli in Italia, li vede rientrare questi cervelli? In chiusura è l'ultima domanda che le faccio, o no? O resteranno a Londra o a Berlino o dove hanno scelto di emigrare? Ma io mi auguro che questo non avvenga, non so che cosa stia effettivamente succedendo, temo che un po' di questo ritorno sia in atto, non perché io non voglia che ci sia un ritorno, anzi la legge che avevamo promosso era proprio in quella direzione, ma un conto è una libera scelta, un conto è mantenere comunque la circolazione dei talenti, altro è che non ci sia più scelta e che le decisioni siano in qualche modo obbligate dagli eventi. Questo è ciò che dobbiamo assolutamente contrastare. In fondo una delle più grandi forze dell'Unione Europea è stata quella di consentire la mobilità, e sicuramente non vorrei essere di quella generazione di politici che hanno cominciato a intraprendere un percorso inverso. Grazie ad Alessia Mosca, la nostra Sunday Girl di questa domenica. Grazie a voi e buona domenica. Questo lo sapete, è il momento della domanda della settimana, una domanda, un dubbio che è relativo a questioni del vostro ambiente professionale o dubbi che avete rispetto alle tante sfaccettature delle nostre vite. Vi ricordo che potete scrivere a nessunaeperfetta@radio24.it e seguirci su Twitter usando l'hashtag nessunaeperfetta, e siamo anche su Facebook naturalmente. Chi ci scrive oggi è Paola. Buongiorno Maria, approfitto della sua trasmissione per una mia considerazione personale. Sto guardando il TG e vedo che la squadra che sta mettendo in piedi il nuovo presidente Donald Trump è quasi tutta di uomini. Non è che dopo la sconfitta di Hillary Clinton si vuole mettere indietro l'orologio e dimenticare tutte le conquiste che abbiamo ottenuto noi donne negli ultimi anni? A quanto pare non ci rimane che Angela Merkel. Ecco, qui Paola pone una questione che credo così abbia attraversato in misura più o meno preoccupata i pensieri di molte di noi, e il dubbio non ha come dire una soluzione, ma può essere sviluppato, e io penso che le esperte che questa domenica sono con noi ci aiuteranno a farlo, e le presento subito. Sono Chiara Saraceno, sociologa che non ha bisogno di presentazioni, esperta di temi del lavoro, della famiglia, delle questioni femminili, appena pubblicata un nuovo saggio per la casa editrice Il Mulino, Mamme e papà, gli esami non finiscono mai, e come è vero, assolutamente. Buona domenica, Chiara Saraceno. Buona domenica a voi. In collegamento con noi c'è una giovane sindaca di Cascina, in provincia di Pisa, Susanna Ceccardi. Susanna Ceccardi qualche giorno fa, in un'intervista al quotidiano diretto da Maurizio Belpietro, La Verità, ha assunto una posizione molto chiara e mi pare un po' trumpiana. Ha detto: per me le quote rosa sono degradanti, per una donna non è degradante servire la colazione in tavola ai figli, è molto più degradante essere considerata una quota. Allora Susanna, buongiorno sindaco, ci aiuta a capire la sua posizione su quello che è stato appunto il suo punto di vista espresso nell'intervista al quotidiano La Verità. Buongiorno a tutti e a tutte. Io intanto ci tengo a essere chiamata sindaco, perché queste ultimi neologismi in salsa femminista non mi si addicono, non mi piacciono. Va bene, la chiamiamo sindaco, ma mi spiega? Al di là dei nomi e delle parole bisogna andare alla sostanza. Ecco, io le dico chiaramente, quella posizione lì tra l'altro l'ha espressa in un convegno insieme a Laura Boldrini, che ma a me interessa la sua di posizione, quella di sì. Laura Boldrini la conosciamo, perché le quote sono degradanti? Veniamo all'essenza, come dice lei. Proprio glielo spiego, io mi riferivo rispetto alla colazione servita in tavola, una dichiarazione che fece Laura Boldrini qualche tempo fa, dicendo che le pubblicità dove si vedono le donne servire in tavola la colazione sono degradanti per la figura femminile. Ecco, io penso che questa posizione sia una posizione assurda, anche perché chi propone le quote rosa in realtà non capisce che per noi donne, che ci siamo sempre guadagnate le preferenze, che siamo state elette dai cittadini al pari dei nostri colleghi maschi, sia una posizione assolutamente degradante. In Europa persone molto influenti come Angela Merkel appunto, o anche Marine Le Pen, Margaret Thatcher, che ha governato ininterrottamente per 20 anni in Inghilterra, in un partito che era poi anche quello conservatore, quindi storicamente un partito insomma di maschi, non sono passate dalle quote rosa, sono state elette al pari degli altri. E io come sindaco non sono passata dalle quote rosa, quando ero consigliere comunale di opposizione non sono assolutamente passata dalle quote rosa. Questo mi è chiaro il suo concetto, a parte il fatto che le quote rosa in Italia sono applicate nei consigli di amministrazione, dove non si entra in base a una votazione ma di solito per cooptazione, e le assicuro che i maschi che siedono sulle poltrone ben retribuite spesso dei consigli di amministrazione non avrebbero fatto posto a talenti femminili di grande qualità se non ci fosse stata la legge Golfo Mosca a imporlo, questo lo riconoscono loro per prima. Comunque sulla politica la sua è una posizione chiara. Allora restiamo sul Chiara e Chiara Saraceno. Professoressa Saraceno, in queste parole di Susanna Ceccardi ci sono come dire convinzioni che ho sentito ripetere molto spesso negli Stati Uniti dalle sostenitrici di Trump: noi donne ce la facciamo da sole, non abbiamo bisogno di quote. In realtà non ci sono le quote nell'amministrazione che sta mettendo su Trump, ma al momento i nomi che circolano sono tutti maschi. Stiamo assistendo a una controreazione? Beh, intanto io capisco la posizione della sindaca, o del sindaco, chiedo scusa, ma io dico sindaca perché tutto il femminile e il maschile a seconda di delle persone di cui parlo, ma perché capisco che se una viene considerata una quota e non come una persona individua con le sue qualità e specificità si sente umiliata, ma io le vorrei però rovesciare la questione, cioè gli uomini non si sentono mai umiliati quando stabiliscono una quota del 90 o del 100% come nel caso del governo Trump, anche lì c'è una quota, anzi c'è un monopolio, quindi il problema delle quote va riformulato, non va inteso come ti prendo perché così riempio la quota, ma va riformulato come una questione antimonopolistica, cioè come un criterio per rendere impossibile che chi sta in posizione di potere, e quindi può decidere i candidati, può decidere chi cooptare, eccetera, non coopti soltanto i suoi amichetti o quelli del suo sesso, a prescindere dal merito. Oltretutto la sindaca dovrebbe essere consapevole che se lei è riuscita ad arrivare dove è arrivata è perché tante donne prima di lei hanno lottato perché le donne diventassero visibili anche in politica, quote o non quote. Non è una cosa che è venuta naturale. Se uno guarda ancora adesso quanto sono le donne sindaco in Italia, viene anche preso da una po' di sconforto, allora o perché sono tutte sceme le donne o non sono interessate, oppure forse c'è un problema di monopolio, di atteggiamenti monopolistici da parte degli uomini in politica come in economia. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto e torniamo veramente tra poco con le nostre esperte. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Nuova Giulietta Winter Edition, optional per l'inverno inclusi nel prezzo. Vi presenta. Nessuna è perfetta. Bentornati a Nessuna è perfetta, il programma dell'altra domenica di Radio 24. Susanna Ceccardi, sindaco, sindaca di Cascina. Un'amministrazione Trump che fosse al 90% di soli uomini, lei la considererebbe, perché stiamo parlando in teoria, equilibrata? Certamente. Ma guardi, io tra l'altro ho degli organismi di enti partecipati all'interno del mio comune e questa cosa delle quote di genere, che poi non sono soltanto quote rosa, no? Cioè una quota minoritaria che deve essere applicata per l'uno o l'altro genere, perché non si potrebbero, faccio un esempio, sono un ente partecipato dove c'è da fare tre nomine, non posso nominare tre donne bravissime, meglio degli altri colleghi maschi, ma sono obbligata a nominare due donne e almeno un uomo per rispettare la quota di genere, anche questa è una stortura, no? Perché al di là poi del genere, che sia maschile o femminile, io devo guardare al merito e alla bravura delle persone, e questo si ripropone anche in America. Se Trump si fida di più di suoi colleghi che per casualità sono maschi, perché non può farlo? Io non lo vedo, io credo anzi che lui abbia tutta la legittimazione per farlo, da chi l'ha votato, assolutamente. Chiara Saraceno, si dice sempre che la diversità porta punti di vista diversi e dunque aiuta a tenere conto delle più diverse opinioni. Se c'è una uniformità di generi, cioè tutti maschi, è difficile, no, che poi per esempio nelle aziende si conoscano i problemi che hanno le donne a casa e al lavoro. La stessa cosa se ci fosse un consiglio di amministrazione tutte donne. Per l'azienda, per in politica, ma non solo, non si vedono i problemi delle donne, non si vedono neanche i problemi degli uomini, che sono tutti costretti a essere persone che non hanno una responsabilità al mondo nei confronti dei figli e delle mogli e dei genitori anziani, sanno quello eventualmente di mantenerli. Quindi il discorso sul merito è molto bello, ma vale non solo per questioni di genere, anche per ricchi e poveri. La questione è chi è in condizione di far valere il proprio merito. Se i cancelli sono chiusi e cominciano a essere chiusi molto prima di arrivare ai vertici, perché appunto se sei donna oppure se sei nero oppure se sei musulmano o se sei meridionale ti indirizzo in un'altra direzione, non ti considero neanche, allora è inutile che poi mi si dica che ho guardato soltanto al merito. Figuriamoci, anch'io sono una che si è fatta da sé e con lottando moltissimo, ma so benissimo che non è soltanto il merito quello che conta, che per poter far valere il proprio merito innanzitutto bisogna anche poter essere visti, bisogna poter se no non se ne accorge nessuno, se non ti fanno partecipare alla gara non si capisce se sei brava oppure no. Susanna Ceccarri, posso chiederle quanti anni ha? E non abbiamo detto la sua giunta, da chi è composta politicamente. Allora, io ho 29 anni. Sì. E qui diciamo l'amministrazione lo chiamano un po' il gineceo, perché siamo, siamo un po' di donne. Allora, io sono sindaco, poi in giunta ho altre due donne. Per quale partito, non abbiamo detto? Per la Lega Nord. Ecco. Ho altre due donne e cinque colleghi assessori maschi, poi la presidente del consiglio è una donna e il segretario comunale è una donna, quindi diciamo le posizioni ufficiali. Lei come è arrivata alla candidatura a sindaco? Chi è che l'ha aiutata? È giovane, quindi qualcuno ha creduto in lei, no? Io ho iniziato con 10 anni fa con la politica universitaria, avevo 19 anni, ero matricola, mi sono interessata di politica universitaria, sono stata eletta agli organi centrali dell'università. Dopodiché ho iniziato mi è piaciuta, mi sono appassionata, ho iniziato con la politica territoriale e mi sono candidata per la Lega Nord 5 anni fa in consiglio comunale per una coalizione centrodestra che perse allora. Però entrai come consigliera comunale, tra l'altro la prima della Lega Nord nel mio comune. Ero donna e c'avevo una lista che in gran parte è fatta di uomini, no? Ma con le liste delle comunali si prendono le preferenze, che siamo uomini o donne. Sì, ma chi è che l'ha aiutata? Le sto chiedendo, c'è stato un mentore o una mentore, qualcuno di più? Io ho avuto una squadra bellissima di consiglieri e di persone che si sono spese in questa campagna. No, non ci siamo capiti. Nel partito... Perché i partiti funzionano che poi c'è qualcuno che pesa più degli altri e dice: sai che c'è questa Susanna Ceccardi, lamentiamo. Era un uomo o una donna? Allora, la mia candidatura è venuta dal basso, però il segretario Matteo Salvini mi ha dato una grande mano, ha creduto in me fin da subito. Ok, quindi diciamo che per farsi vedere c'è bisogno di un capo che ti illumina. No, in questo caso guardi, c'è un capo uomo. Sono entrata nella Lega Nord quando c'era Bossi addirittura, poi dopo è passato Maroni, poi è venuto Salvini e io ho sempre avuto spazio con tutti e tre i segretari in egual misura, quindi devo dire che anzi, se uno è bravo e si impegna sul territorio e soprattutto i cittadini sono contenti, un partito sano non può far altro che premiare la felicità dei cittadini, quindi le persone che più stanno vicine ai cittadini. Mentre ci avviamo alla fine, Chiara Saraceno, ci sono alcuni messaggi, no, che arrivano dagli Stati Uniti. Abbiamo detto l'amministrazione che per ora vede i nomi che si segnalano sono tutti di uomini e bianchi, ma anche sul fronte, come dire, della First Lady, che non si trasferirà a Washington, men che meno, per quanto ne sappiamo, avrà un ufficio alla Casa Bianca come invece aveva avuto Hillary e come ha avuto anche Michelle, ma rimarrà a fare la mamma, sia pure nella reggia dorata della Trump Tower a New York. È un messaggio di un ritorno a una dimensione, come dire, un po' anni 50 delle First Lady. Devo dire su questo che io non ho mai molto apprezzato questo modello americano per cui la First Lady in qualche modo anche lei deve far parte del team del marito. Confesso che penso che le donne debbano tentare di venire fuori per quello che sono, non abbandonare come ha dovuto abbandonare a suo tempo Hillary Clinton e poi Michelle Obama la loro professione, un marito non lo farebbe mai, per poter accompagnare e fare appunto la first lady. Per cui non mi turba particolarmente, ricordo che abbiamo un caso italiano, la Voltolina, la moglie di Pertini, rifiutò di andare al Quirinale, mantenne casa sua in questo caso perché lei aveva un suo profilo, voleva continuare a fare la sua strada. Certo. Quindi non cambia moltissimo. No. Senta, Sindaca Ceccardi, durante la sua campagna elettorale lei si è lamentata più volte di aver ricevuto attacchi sessisti dal suo avversario, che tra le altre cose l'aveva definita ragazzetta. Cosa pensa degli attacchi sessisti che Trump ha rivolto alle donne nella sua campagna elettorale? Ma guardi, in realtà io non è che ho definito gli attacchi dell'ex sindaco sessisti, erano solamente goffi attacchi di uno che non sapeva cosa attaccarsi, e allora più che altro si attaccava all'età, perché è ragazzetta. L'altra sera Ali Brandi in una trasmissione mi ha chiamato bella lavanderina. E lei, lei come ha risposto? Io gli ho detto facciti a lavare i panni, che fai qualcosa di utile. Bene, ci fermiamo. Va bene, ci fermiamo qui. Io ringrazio Chiara Saraceno, sociologa, ricordo che è in libreria il suo ultimo saggio, Mamme e Papà, gli esami non finiscono mai, pubblicato dal Mulino. Ringrazio la sindaca, o sindaco come preferite, di Cascina, Susanna Ceccardi, e grazie a voi che ci avete seguito questa domenica. Buona domenica ancora a tutti.